51. Strichetti alla bolognese. Intridete la farina con due uova, grammi 40 di parmigiano grattato fine e l'odore della noce moscata. Tiratene una sfoglia non tanto sottile e tagliatela con la rotella smerlata in tante strisce, larghe un dito e mezzo. Poi, con la stessa rotella, tagliate queste strisce in sbieco e alla medesima distanza di un dito e mezzo per farne tanti pezzetti in forma di mandorla. Prendeteli uno alla volta e stringete con le dita le quattro punte, due al di sopra e due al di sotto, per formarne come due anellini attaccati insieme. Cuoceteli nel brodo con poca cottura. La dose di due uova potrà bastare per 5 persone. Se questa minestra vi piace, siatene grati ad una giovane simpatica bolognese chiamata la Rondinella che si compiacque insegnarmela.